c'è un respiro in più. Stanotte sei tu. Io vivevo qui nel buio così, ma l'acqua buona mi bagnò col suo respiro e il primo